This one's called I Won't Pay Your Pricey. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, gli Shelter of Leech. Allora, 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Valpolicella. Radio RCS si può ascoltare anche in web streaming dal sito www.radiorcs.it. E dall'hard rock degli anni 70 passiamo al metallo britannico degli anni 80, iniziando dai Motorhead, che abbiamo ascoltato live dalla BBC Session con il brano I Want to Pay Your Price. Da solo Lemmy fa la storia della band e sembra proprio che nonostante i suoi mille eccessi sia indistruttibile. È proprio vero quel che si dice, che il metal mantiene giovani? Il metal mantiene giovani e mantiene giovane soprattutto Lemmy. Io l'ho visto 2 anni fa a Piazzola sul Brenta, è stato incredibile. Ovviamente, come sempre, al primo pezzo è entrato, mitica frase, we're Motorhead, we play rock and roll, e da lì è venuto giù tutto, guarda, veramente, più invecchia più migliora. No One Else Around è il titolo del vostro disco, qual è il significato di questa frase e dell'immagine di copertina? Beh, No One Else Around letteralmente vuol dire non c'è nessuno in giro, e diciamo si prende spunto da quelle che sono un po' le situazioni attuali, la congiuntura politica, economica della nostra società, soprattutto la società occidentale. Si pensa un po' a come stanno andando le cose e non c'è nulla di buono che lascia presagire questa situazione, quindi No One Else Around è un po' un monito a questo. Nel 1982 Ugly Ward, bassista per breve tempo dei Damned, forma una heavy metal band che si chiama Tank. Il primo disco, Felt Sounds of Hate, diventa subito un classico del metal britannico grazie a brani veloci e potenti come Struck by Lightning. Potenza e velocità per una band magari meno conosciuta di altre, ma sempre di grande impatto. Non conoscevo i Tank, ho allargato i miei orizzonti musicali. E che non è male, voglio dire. A me sono piaciuti. Ma come? Sì. Sì, sì. Il bassista non usa poco il pleasure. Vostre influenze musicali, quali sono e quanto incidono nella creazione delle canzoni? Beh, ognuno ha le sue influenze, come ogni band. Non lo so, io dico. Tu hai avuto quella suina. E si vede. Io ascolto molto i Tool, ascolto Pantera, ascolto anche tutta la parte di musica che abbiamo ascoltato fino adesso. Certo. Tra cui i grandi nomi, vabbè, i soliti nomi che tutti ascoltano. Gli altri so che comunque, per dirti Davide, è molto anche verso lo stoner, verso... Beh, insomma, dillo tu Davide, dai. No, no, parla tu per me, grazie. Vabbè, visto che conosci le mie influenze. No, vai, scusa, vai. Dai. No, no, ma dai, cioè... No, a parte gli scherzi, sì, come diceva il Sam, io oltre al metal ho anche, diciamo, mi dirigo un po' anche su tutta quella che è la sfera grunge, stoner, post-grunge, new metal, gli anni 90 in generale. Chiudiamo allora la seconda parte con i Judas Priest, la storica band di Rob Halford, dalla forte immagine Catene e Borchie, con il super classico del disco British Steel 1980, da cui ascoltiamo Metal Gods. Dopo gli spot saremo ancora in studio con gli Shelter of Leech, che ci presenteranno 6 canzoni tratte dal disco No One Else Around. Non mancate! Meeting with us.